La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. Saluto Francesco Boanelli, che seguo la tua trasmissione quando me ne torno la mattina dopo un'alzataccia per andarmi a girare un mercatino delle pulci a Roma. Come guardiana del faro ti sei scordata di aggiungere che la solitudine è dei temerari o no? Ma sì, certo. Ti immagino, Francesco, che vai saltellando nei mercatini e ci dai un'altra tessera di questo puzzle degli ascoltatori, perché c'è chi ascolta sonnecchiando la mattina. Ecco, ci danno conto di sé soprattutto i mattutini, quelli che ascoltano la domenica mattina alle 9, e invece sono più avari di notizie i notturni, quelli che ci ascoltano il sabato sera alle 23. Ci piacerebbe sapere qualcosa anche di loro. Comunque, ciao Francesco. Oh, poi mi scrive Domenica Giaco, che conosco, che ho incontrato, che è un atleta, una persona interessante, che ha questo corpo della tuta, si vede questo corpo perfetto nonostante abbia avuto dei figli, quei pancini piatti da danzatrice che non ho mai avuto neanche a 15 anni, e sempre sospirati, invidiatissimi. E ancora più belle le parole che dice su di sé: anche io ero libera e così mi piaceva sentirmi. Poi, senza rendermene conto, mi sono costruita recinti e credevo di essere felice. Se non lo avessi fatto, a quest'ora sarei morta, perché sfidavo sempre il pericolo. Pavel Sarria. Salve, sono un ragazzo peruviano arrivato in Italia per amore. E dice che in queste trasmissioni lui sente un ricordo di umanità. È bello, sembra come dopo una disgrazia atomica, quale effettivamente c'è stata nello spirito dell'uomo. È bello anche questo ritratto di Pavel Sarria in una riga. Arrivato in Italia per amore. Basta, è un ritratto. E anche attento un ricordo di umanità. Oh, poi grazie anche a Federica, che ha 26 anni, ci ascolta e ci siamo incontrate sia alla Festa del Libro a Roma e al Salone del Libro di Torino. Mi dice molte cose lusinghiere e poi mi dice che vorrebbe che fossi sua zia. Ecco, non osa dire nonna, che invece è un ruolo molto più cospicuo. La vicina di casa, la figura femminile, dice così fiera dei propri capelli argentati. Ma grazie Francesca, ma io non l'ho fatto apposta, eh. Forse per me avrei ancora questa chioma leonina di colore non equivoco. Mi scuso con tutto il dispiacere del mondo con Francesco, che cerca di far rinascere la vecchia Italia URSS nella nuova Italia by Russia. Ti scriverò di persona, intanto ti chiedo perdono di non averlo fatto prima, visto che da 3 mesi ho la tua lettera, e grazie per questo finale spassivo Balshoi, Francesco. Ho avuto una storia con un ragazzo che mi ha conquistata perché prima di fare l'amore mi sparava con una pistola d'acqua nei punti che più desideravo. Finché l'ho fatto mi eccitava moltissimo e dopo sono stati dei bei momenti. Poi l'ho raccontato a una mia amica che si è messa tanto a ridere, dicendo che lui è un maniaco, un impotente e io una fumettara. Ma il sesso degli altri ci fa sempre ridere. E il grido d'invidia davanti alla felicità altrui, che non si può impedire, e allora si cerca di distruggerla con una risata. Però tu hai sbagliato. Lo vorresti imparare che queste cose non si raccontano? O si raccontano, ma soltanto a letto. Non certo un'amica cui non hanno mai fatto un gioco d'amore, o forse nemmeno mai un gioco. Non si può mostrare una tavola imbandita a un affamato e pretendere pure che ci benedica. Non è stata mica per bontà che gliel'hai sbattuta sul muso, ma per essere invidiata. E allora subisci nelle conseguenze. Cara Barbara, ti scrivo per un piccolo consiglio. Lo so, riceverai centinaia di queste lettere, ma io non ce la faccio più e devo prendere una decisione. Conosco 5 anni fa un uomo, io 35 anni, lui 36. Io medico, lui operaio. Ti risparmio i cori di critiche che sono seguiti al nostro fidanzamento. Passano mesi belli, intensi, carichi di gioie e qualche inevitabile dolore. I miei sono contenti, talvolta preoccupati per la differenza di cultura, ma è un bravo ragazzo. La cultura, Ti dona quella trasparenza di pensiero e quella capacità di ragionamento che ho sempre pensato di possedere, fino a quel giorno in cui, durante un litigio, lui alza le mani. Non è successo solo una volta. Qualcosa si è rotto, inevitabilmente. Dopo inizio a vederlo con altri occhi. Lui alza la posta. Vorrebbe un figlio perché mi ama e sogna una famiglia con me. Ma io rivedo quelle scene e non voglio si ripetano davanti ad occhi innocenti. In sua mamma, intanto, si palesano piccole forme stupide di superstizioni. Non è il mio ambiente. Ho amato e voglio ancora bene ad un uomo con cui ora non riesco più a condividere tutto. Forse i miei non avevano del tutto torto. Claudia. Io non so se avevano ragione i tuoi genitori. Il fatto è che in 5 anni il vostro amore si è consumato e le differenze culturali che, nel pieno della passione, non vi imbarazzavano, adesso sono diventate un grande ostacolo. Lo scrivi tu stessa. Prima lo amavi, adesso gli vuoi appena bene, ma nervosamente, perché non vedi l'ora di liberartene. Oh, poi tra l'altro, a parte il fatto che non lo ami più, è anche uno che prova ad alzare le mani e quindi fai benissimo a lasciarlo. Ma c'è una storia che sentivo raccontare da piccola, di una ragazza nobile che, superando ogni ostacolo, aveva sposato un contadino. Erano andati a stare nel palazzo dei genitori di lei, ma lui era rimasto sempre un estraneo, sgradito alla famiglia alla quale invece lei era molto legata. E dopo 20 anni di matrimonio, quando già avevano 4 figli grandi, erano quasi nonni, lui si uccise, perché la differenza tra loro non si era mai colmata e si sentiva così solo che gli parve meglio morire. Ma questa è una storia che è accaduta tantissimi anni fa e le differenze sociali oggi, invece di sfumare, stanno tornando ad essere degli steccati primordiali. Lui operaio, tu medico. Ma se l'ostacolo fosse stato la cultura, in 5 anni potevi farne un intellettuale, interessarlo ai tuoi interessi. Pensa come vi sareste amati attraverso l'apprendimento. No, non è la cultura, è la classe sociale che vi ha divisi. Tu dici lui ha alzato la posta. Ma ha alzato la posta perché voleva sposarmi e avere un figlio. Si parla così di un arrampicatore, di uno che sta tentando l'ascesa ad un rango più alto, non di un uomo che si ama. Perché che un uomo innamorato pensi di sposarsi e avere dei figli, non mi pare alzare la posta. Non mi pare qualcosa di demoniaco, ma la cosa più naturale del mondo. Mi spiace tu dica, allora i miei genitori non avevano tutti i torti i quali avevano preconizzato, che guai con l'operaio. E uno che prova a menare, beh certo, un operaio. Ma ecco, vorrei ricordarti che le mani le alzano anche i laureati. E quelli che assassinano le mogli o buttano il petrolio sono per lo più dei distinti professionisti. La strage è trasversale e credo non ci sia bisogno di disprezzarlo in quanto operaio. Basta che lo disprezzi come uomo che prova ad avere ragione con la forza. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, come faccio a dimenticare un uomo che amo ancora ma del quale non ho più fiducia perché mi rinvia gli incontri pur rari per motivi di lavoro e famiglia? Lui sposato, io libera, una passione intatta da parte mia. Lui dice che non appena avrò la casa decideremo sul futuro, ma io ci credo poco. Il mio cuore non vuole intendere di lasciar perdere uno che mi mette sempre all'ultimo posto dopo lavoro e famiglia. E i nostri incontri sono sempre carichi di eros e amore. Mi ha sottovalutata e data per scontata, visto che lo amo. Come posso fargli capire che sono io l'amore e che la famiglia e il lavoro sono solo dei doveri? Da 4 anni aspetto un gesto eroico. Lui dice che mi ama, ma non vuole dispiacere i 3 figli piccoli. Ma sarà vero? O sarà che non prova abbastanza amore? Che consiglio mi dai? Cosa lo potrebbe riportare da me? Topolina. Topolina, guarda che ti sbagli. Tu non sei l'amore. Tu sei lo svago. Tu sei l'amante innamorata, quella che lo fa sentire un grand'uomo perché gli consente una doppia esistenza. E poi guarda che 3 figli piccoli e una giovane moglie non sono soltanto dei doveri, sono un progetto di vita. Ai doveri si mischiano tanti piaceri, tenerezze, gioie, ricordi. Tu non sei l'amore, tu sei un amante di cui lui è stufo. Ma come te lo deve dire? che non vede l'ora di liberarsi di te. Ti centellina gli appuntamenti, non si presenta. Quando riesci a riacchiapparlo, tira fuori lo stanchissimo repertorio dello sposato. Cioè, sei capitato col classico moglione. Ne abbiamo parlato tante volte, ma ti rileggo diligentemente la definizione di questa frequente maschera della commedia matrimoniale italiana, annoiando ormai anche i microfoni. Però è bene che giunga anche alle tue orecchie. Allora, ripetiamo. Dalla Treccani dei sentimenti, il moglione. Il moglione è il mammone della moglie. Quelli che tradiscono sempre e non se ne vanno mai e fanno soffrire sposa e amante. Il moglione è sempre innamorato fuori di casa, ma identifica la moglie con i confortevoli arredi del salotto, come il divano sformato dalle proprie chiappe che non cambierebbe mai con uno nuovo. In più questo è pure un moglione stufo. Per lui sei ormai una moglie, ma molto più noiosa dell'altra. Una moglie con pretese. Lui non potrà mai dirti altro che bugie e non riesce a lasciarti soltanto perché tu sei diventata piccicona. Tu non ti scolli, perché tu non ti fai lasciare. Niente lo potrà riportare a te, salvo forse che tu non ti abbassi a far finta di non volerlo più. E allora insorgerebbe l'orgoglio. Ma come? Quella non mi muore più dietro? E forse si riscalderebbe appena per un po', ma come una minestrina del giorno prima, perché la magia è finita. I lacchè sono tornati topi e la carrozza è una zucca. Inventati un'altra fiaba. Però stavolta cerca di capire chi hai davanti, di non vivere uno schema. Lui mi ama, la famiglia è un peso. Tu sei un peso. Guarda, mollalo e ti dispiacerà assai meno di quanto credi. Sarà un sollievo. Per te, per lui non ne parliamo. Pensa tutte le bugie e i sotterfugi per vedere un amante che sono gloriosi finché ti interessa davvero, ma dopo diventa un incubo, altro che la moglie, che ai suoi occhi ha un incanto in più grazie a te, all'aureola della tradita che non lo sa. E questo agli occhi di un marito italiano, per definizione sentimentalmente maleducatissimo, ha un valore immenso. Cara Barbara, sono un uomo di 40 anni single, sempre stato single. Solo una piccola storia con una ragazza all'età di 22 anni, finita perché lei mi ha lasciato per un altro. Ho sempre vissuto con i miei genitori in un piccolo paese, lavoro come operaio in una ditta di soli uomini. Ho perso quasi tutti i miei amici perché si sono sposati. Esco di rado solo nei fine settimana e incontro poca gente. Quest'estate avevo conosciuto tramite amici una ragazza di 35 anni. Ci ho parlato un paio di volte, restando anche spesso senza parlare per la mia timidezza. L'ultima volta le ho chiesto di fare una passeggiata insieme, ma mi ha risposto negativamente. Non sono un bell'uomo, ma neppure brutto. Il mio problema è la timidezza e il fatto che mi sono arreso subito dopo essere stato rifiutato da tutte le ragazze che ho conosciuto e corteggiato. Adesso la routine comincia a starmi stretta. Michele. Beh, caro Michele, la parola timidezza suggerisce immagini di grande simpatia. Il timido sa arrossire, non è invadente, vive in un'aura di delicatezza mistica. Però, se vai a guardare il significato, non è così simpatico. Timido, da timeo, temere. C'è una timidezza che è riserbo, ma esistono anche dei timidi risoluti. E c'è una timidezza che è terrore, che è negazione. Tu ti vergogni di te e si vede. Questo è il contrario del fascino. Io, se fossi al tuo posto, non ci sono. Farei qualcosa per innalzarmi ai miei occhi. Forse a cominciare dall'aspetto, ma questo è marginale. Non dico un'impresa plateale e gloriosa, qualcosa di utile, di bello. Magari di segreto che ti faccia pensare, bravo Michele. E questo traspare. Ma se tu stai nell'angolo, solo a calcolare le mosse, non muoverai nulla finché non sarai tu a muoverti. Il primo movimento musicale è innamorarsi. La mia amica Laura Righi da Torino mi ha detto, il vero seduttore è quello che si innamora. Se una forza parte da te, da qualche parte arriverà. Si può essere anche amati per la timidezza, ma se si è capaci di quella naturalezza che è generosità, se si esce dalla cassaforte. Comunque, quando non riesco ad essere abbastanza cattiva o abbastanza profonda, mi rivolgo a Umberto Silva, scrittore e psicanalista. Allora facciamo squillare il telefono nell'Associazione Psicanalitica di Padova. E quest'uomo, con la voce da cardinale, spero ci risponda. Umberto? Ho sentito un grugnito severo, penso che sia tu. No, severo mai, eh? Severo mai, anzi un po' divertito, non solo dalla lettera, ma anche dal tuo splendido commento che fanno il paio in qualche modo, no? È già un duetto amoroso. Un duetto amoroso perché ci sento una sfida. Il timido, no? Non si nasce timido, si fa il timido, no? Il timido fa una sfida d'amore estremo. Cosa ti dice? Amami nonostante che io faccia lo scemo, nonostante che io faccia questa parata di colui che non desidera, di colui che non è degno di essere desiderato, quello che neanche osa guardare, che non ha sguardo, che non ha nulla, amami lo stesso tu. Cerca di andare oltre tutto questo, cerca di capire se ho un cuore, ho un'anima e via dicendo, e amami. Ma naturalmente la donna dice no, perché vuoi troppo, esigi troppo. Questa sfida la farei se tu ravvisassi alcuni segnali che effettivamente ne valga la pena. La pena ne vale se sei veramente splendido, bellissimo, meraviglioso, eccetera, eccetera, no? Come avviene tanti libri di Jane Austen, no? Orgoglio e pregiudizio, tutto questo tema, no? Amami nonostante. Non solo nonostante, ma proprio per questo, proprio perché io non ti voglio, perché apparentemente almeno ti rifiuto, perché sono ridotto così, perché amami lo stesso, è una sfida estrema. Poi dice sempre di essere stato single, no? Questo nostro amico, ma era single anche quando era con la mamma, con la quale sta tuttora, non è mai stato single, è sempre stato con la mamma. Quindi, con la mamma e col papà. Quindi assolutamente non single, no? Non ha mai sperimentato la condizione di single. Esca di casa, no? Viva in solitudine, allora magari... Sì, però scusa Umberto, adesso devo fare un discorso, sì, noioso, ma mi dispiace. Oggi purtroppo è una piaga sociale, il fatto di vivere coi genitori non è una libera scelta, e che ci stanno riducendo così schiavi che poi si arriva a queste ingiudiziose. Ai nostri tempi era diverso, Umberto, si andava via di casa, un affitto costava 30.000 lire. E quindi scusa questo per la precisione, perché magari Michele sarebbe entusiasta ad avere una monocamera a servizi. Non credo che sia, non credo che mai sia una questione realistica, no? Perché se uno se ne vuole andare, se ne va anche sotto i ponti, se ne va non so dove, no? Ma se ne va. Più che i ponti, magari trova degli altri giovani, trova degli altri giovani con cui dividere una casa, magari, ecco. Sì, appunto, trova degli altri giovani con cui dividere qualsiasi cosa, ma probabilmente non vuole dividere vuole tenersi la mamma tutta per lui, insomma, no? C'è un attaccamento, perché non altre donne? Perché, insomma, c'è già mamma, no? E quindi è comunque una sfida diretta anche alla madre, insomma. In che modo? Mamma, guarda che tu sei l'unica donna, no? Che amo. Credevo che fosse un po' obsoleta questa interpretazione pammamistica, voglio dire, però invece... Insomma, no, è sempre buono. Lui però scrive: adesso la routine comincia a starmi stretta, è anche molto insoddisfatto, Michele. Beh, questo è buon segno, già che ne parli, che ne scriva. Speriamo che gli sia proprio strettissima, ma sai... In questa una assoluzione parziale, una piccola speranza gliela dai a Michele, mostro, sì, o no? Sì, no, sicuramente il fatto che ne parli indica che non ne può più. Quando proprio non ne potrà più di questa sua sfida, capirà che è una sfida troppo luciferina. Amami proprio perché non ti voglio, proprio perché... Le antiche prove cavalleresche, vinci la giostra per me, sì, ovvero sì, sia, ti poni come premio. Quando la sua autostima cadrà un po', perché questo lui dice che non si stima, eccetera, eccetera. No, qui c'è una sopravvalutazione di sé pazzesca, no? Si considera un oggetto di premio preziosissimo, no? Tanto che bisogna scovarlo e meritarlo. Appunto. Quando gli cadrà un po' l'autostima, dirà, beh, forse sono un umano come tutti gli altri, allora vabbè. Io penso che Michele gli si drizzeranno i capelli a sentire queste storie. Comunque, senti Umberto, visto che ormai, sì, ti abbiamo snidato, ci assisti per qualche altra lettura? Certo, volentierissimo. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Cara Barbara, ho 23 anni. Sto insieme al mio ragazzo da un anno e siamo innamoratissimi. Lui tiene tantissimo alla sua mascolinità. Spesso esprime commenti sprezzanti nei confronti degli omosessuali, ma l'altro giorno, usando il suo computer, ho scoperto che si diletta a guardare video pornografici con transessuali e donne dotate di attributi maschili. Sono perfettamente conscia che le fantasie sono libere e spesso poco inerenti con la reale vita sessuale della persona, ma non nego che questa cosa mi abbia mandato in confusione. Non ho intenzione di parlargliene. Contesterebbe tutto e si solleverebbe un polverone infinito. Aggiungo che la nostra vita sessuale è intensissima e non gli ho mai negato niente. Sbaglio a non chiedergli niente. È meglio tacere. Ah, la tecnologia. Noi stiamo sempre a spiarci gli uni con gli altri. Anzi, siamo spie di noi stessi, lasciamo tracce e ci facciamo scoprire. Un freudiano osservante direbbe che l'ha fatto apposta il tuo fidanzato, ma non credo. Una traccia importante lui l'aveva lasciata già prima, perché quando un etero inveisce contro gli omosessuali è sempre un coming out, ovvero inveisce contro la propria forte pulsione omosessuale con la quale si rifiuta di fare i conti, o come il tuo ragazzo lo fa in segreto senza dividerlo con nessuno. Il vostro è un rapporto finto. Lui ti nasconde una parte di sé molto importante, la sua immaginazione, cioè tutto, e ne è geloso. È una cosa solo sua che ti esclude, e in questo senso è un tradimento, perché anche il sesso tra voi è simulato, è incompleto, in quanto tu non conosci i suoi veri desideri. Come mi sarebbe a dire, è meglio tacere. Tace lui, taci tu, bel rapporto. Certo, se gliene parli, cerca di non sembrare un'esattrice e soprattutto cerca di non sentirti tale. È una spiegazione delicatissima. Lui si sentirà scoperto, si sentirà sotto accusa. E tu devi sapere cosa vuoi da lui. È quasi come la formula del matrimonio. Sei tu disposta a condividere qualsiasi parte del suo immaginario? Ad amare un uomo nella sua totalità? Umberto, Umberto, sei ancora lì, vero? Cosa dici a questa ragazza? Innanzitutto direi che non parlerei proprio di omosessualità, perché questa ragazza ha fantasie intorno ai trans e intorno alle donne falliche. La scrivente dice che gli ha dato tutto, compreso il fallo, ma meglio che non glielo dia questo fallo, allora meglio che si astenga da manifestare un potere assoluto, come sembra nelle ultime righe dove dice che non solo gli ha dato tutto, ma sa tutto di lui, ma sa anche tutto di quella che è la casistica umana, ovvero dice questo non lo faccio perché così, quello non lo faccio perché cos'ha, questo di qui, questo di qua, no? Si sente un'onnipotenza molto forte, no? E quindi è proprio come diceva Barbara prima, quando cade l'onnipotenza, quando uno non pensa di sapere tutto dell'altro e di sé, che si può instaurare una comunicazione, un dialogo, perché nella credenza di sapere, conoscere perfettamente chi si è, chi è l'altro e via dicendo, no? Beh, lì non c'è più sessualità e quindi si punta direttamente al feticcio, al fallo, e ovunque sia, soprattutto se è attaccata una donna fallica, via dicendo, no? Si immaginano queste figure più o meno mitologiche per poter andare oltre l'abbandono. Invece è importante abbandonarsi a cosa? All'ignoranza, l'ignoranza dell'inconscio, no? A scoprire le cose senza attribuirsele. Scusa, una domanda, ma perché però quest'uomo che vuole e ama la donna fallica non manifesta questo desiderio alla sua ragazza? Perché non condivide i suoi sogni? Beh, bisogna vedere effettivamente com'è il loro rapporto. Dice che è un rapporto magnifico, eccetera, eccetera, però non è detto effettivamente com'è il rapporto, se lui, questa ragazza, la vede fallica o no. Questo non si sa. Adesso la speaker Alessandra De Luca leggerà una lettera per la quale io non ho risposte e quindi ti prego di rispondere tu direttamente a Miriam. Vi ricordate la frase di Filumena Marturano? Io non chiagno, non piango, che è poi il grido di un'anima mortalmente ferita, pietrificata. Da tempo ormai non riesco più a piangere. Non sono mai stata una piagnona. Ma era dolce ogni tanto abbandonarsi a quello sfogo soltanto erroneamente inteso come simbolo di femminea debolezza. Le lacrime hanno una valenza liberatoria ed equilibratrice e, a detta dei moderni scienziati, rilasciano persino una sostanza benefica simile all'endorfina. Perché allora non chiagno? Ciò che più temo è proprio la pietrificazione dei sentimenti e delle emozioni, un'impermeabile insensibilità, dunque, che già non è più vita. Dunque, una lettera, sì, molto interessante, almeno a sentire il grande Émile Cioran, il quale scrive un aforisma che dice: il giorno del giudizio solo le lacrime saranno pesate. Bisogna vedere però quali lacrime sono, la qualità delle lacrime. Ci sono lacrime di coccodrillo, lacrime d'amore, lacrime di rabbia, e poi ci sono anche le lacrime silenti, che non hanno bisogno di scendere sulle gote, di essere una sostanza per manifestarsi. Forse sono le più belle, le lacrime silenti. La scrivente in questa lettera parla di Filomena Marturano, che dice: non chiagno. Beh, Filomena Marturano invece sembra che pianga sempre, no? Pianga sempre, ma ha una tale forza. Persona, anche il famoso motto napoletano, che dice: non si accontenta di chiagna, ma dice chiagnale e fottere, no? È una donna molto astuta, no? Molto volitiva, molto forte, che riesce a anche imbrogliare un po' le carte, vi dicendo, no? Tutto per amore di questi figli, naturalmente, no? Questa scrivente a me sembra molto ingorda di lacrime, e forse per questo viene punita. Ma ingorda di che tipo di lacrime? Viene punita con quella che chiama pietrificazione. È ingorda di lacrime, parla delle virtù delle lacrime, delle lacrime che danno equilibrio, serenità, lacrime addirittura che contengono una sostanza simile all'endorfina. È ingorda di lacrime benefiche, le piace il beneficio che danno le lacrime, qui è molto utilitarista, edonista, insomma, le piacciono le lacrime non perché rappresentano appunto una spiritualità, cioè, ma perché danno benessere, e si lamenta, quindi piagnucola, sul fatto che non c'è più queste lacrime benefiche, queste lacrime che le danno piacere. E in questo c'è un bel paradosso: piangere di non piangere più. È una piagnona, si lamenta di non riuscire a lamentarsi. Questo è il massimo del piagnonismo, certo, in modo assoluto, perché ciascuno nelle lettere, quando si lamenta di qualcosa, mostra di conoscersi. Io sono così, adesso sono pietrificata, sono qui, sono là, oppure sono timido, e via dicendo, no? In realtà il timido abbiamo scoperto che si crede onnipotente. Quella che dice che non riesce più a piangere, piange addirittura di non riuscire a piangere. Si è esattamente il contrario di quello che si pensa e si crede di essere. Si insiste a credere di essere una cosa perché fa comodo, ci consola e così via, no? Ricordiamoci che si è all'opposto di quello che si crede di essere. Questa è una regola generale che vale per tutti. La felicità. Non ricordo più che il sapore ha la felicità. Perché senza te non so più cos'è la felicità. Stiamo ascoltando La felicità, la canzone che hanno presentato a Sanremo Simona Molinari e Peter Sincotti, che è stata presentata all'ultimo Festival di Sanremo, che è stato soporifero e domestico come tanti altri, nonostante Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, che anzi, come due gentili infermieri moderni, accompagnavano e favorivano il sonno di questo caro vecchio, il festival, con delle birichinate previste e un po' stanche, ma sempre gradite, come mi ricordava gli scherzi rituali che facevamo da piccoli al compleanno del nonno, quando mettevamo il sale nel caffè dei commensali o levavamo la sedia di sotto alla zia che si stava sedendo. Era un periodo così brutto per l'Italia e così losco, subito dopo la campagna elettorale, che Sanremo mi era parsa una buona occasione per un sonno ipnotico. Il festival si svolgeva dormendo e si guardava sonnecchiando. Un ovattato sonno come neve cadeva quella confortevole noia sulle teste degli italiani. Poi di colpo qualcosa mi ha svegliata. Sul palco di Sanremo stava succedendo qualcosa di vivo, di leggiadro. C'erano Simona Molinari col caschetto, col suo modo di cantare carnale e astratto, e con lei un ragazzo elegante che suonava il pianoforte in piedi, e un soffio di jazz ha trasfigurato quel povero Ariston. E quella canzone. Voglio parlarvi di quel ragazzo, Peter Sincotti, americano di origine italiana, con una faccia d'artista di tempi perduti. Somiglia un po' a Boris Vian, il grande scrittore surrealista, pubblicato in Italia con poco successo, ma in Francia una leggenda. Anche lui, anche Boris Vian, era un jazzista accanito, e somiglia anche un po' a Guido Gozzano, meno zigomi. E Sanremo colpiva, mentre accompagnava la Molinari, quella freschezza nel suonare, quella gioia, quel visibile godimento nel farlo. In accordo col tema della canzone, la loro era una performance di pura gioia. E da poco è uscito Metropolis, l'ultimo CD di Peter Sincotti. Peter Sincotti è nato a New York nel 1983, la nonna era di Piacenza. E da subito, serenamente, è stato un bambino prodigio, perché già a 3 anni suonava e a 4 la madre lo porta a prendere lezioni di piano. Ma con molta intelligenza, mia madre chiese all'insegnante di farmi suonare tutto quello che volevo, senza forzarmi ad apprendere la tecnica classica. Disse: voglio che sia divertente. E infatti la maestra gli permette di fare le colonne sonore dei film, le sigle delle trasmissioni televisive preferite. E lui dice, racconta che non è mai tornato a casa dicendo: uff, mi devo esercitare. Non era mai stanco di suonare, arrivava ancora con lo zainetto e già si metteva al pianoforte. Nella sua formazione la festa della musica precede lo studio e lo rende più intenso. Quindi a 9 anni già compone, arricchisce la sua preparazione con le basi del jazz insieme a vari insegnanti. Dice lui: quando avevo 5 anni cominciai ad amare il boogie-woogie suonato al pianoforte, anche se sono sempre stato incline a tutti i generi musicali. Essendo nato e cresciuto a Manhattan, sono sempre stato abituato a essere circondato da tante cose. A casa portavano me e mia sorella a sentire di tutto, dai concerti rock al Madison Square Garden, al jazz club, agli spettacoli di Broadway. E poi però, da grande, si iscrive poi al conservatorio e si rende conto che ha bisogno anche di altro, che deve studiare altre cose, quindi si iscrive anche alla Columbia University e fa degli studi umanistici, perché non si può imparare la musica studiando solo la musica. E poi si è specializzato nel rifare le vecchie canzoni. Rifà queste canzoni del passato, ma le tratta come nuove. Dice lui: voglio renderle fresche. Poi nel 2000 ha vinto il Festival Jazz di Montreux e adesso è uscito Metropolis. Ed è questo che volevo farvi sentire. Perché è una canzone veramente urbana. Questo ragazzo, che è sempre stato a Manhattan, ecco cosa scrive. Metropolis. Questa città capovolta, più alta di una colomba. Metropolis, sopra c'è niente. Metropolis, non posso smettere di pensarci. Metropolis, il moderno cavernicolo è caduto dal letto. Gocce di pioggia dalla strada, uno sporco marciapiede sopra la mia testa. Nuvole sotto i piedi. Metropolis, città nel cielo. Metropolis, gli uccelli camminano, gli uomini volano. Metropolis, l'alto il basso l'alto. Metropolis, dove ciao vuol dire addio. Raindrops from the street. Dirty pavement above my head. Clouds below my feet. Hungry hearts. Il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La Guardiana del Faro. In the past, lies ahead. Scrive Sara su Facebook: quest'anno compio 40 anni, sono single. A volte felicemente, a volte no. Ma proprio non ci riesco a guardare un qualsiasi personaggio da barzelletta che mi capita davanti e pensare che possa essere un buon compagno per me. Esagero, per farti ridere. Ho stima di alcuni esemplari maschili, ho molti amici. Nelle coppie riesco a mantenere amicizie separate e a star bene anche tutti insieme. Sono la zia di tutti i figli degli amici. Il punto centrale è la fuga dei maschi. Scappano in maniere diverse, alcuni sgangherati lasciano i loro soprabiti sulla strada, mentre voltandosi lanciano un addio a quei pochi attimi di benessere che hanno passato con me. Altri, più sobri, sollecitano la mia attenzione e poi si rifugiano nei loro carapaci fatti di più disparati materiali. ma ce ne sono alcuni che sono gustosissimi, quelli che non rinunciano a questa novità che gli si è spiegata di fronte per caso, cioè l'incontro con lei, e ti benedicono, ti incensano, potessero ti incoronerebbero per avergli suggerito una vita senza noia, ma poi si intristiscono all'improvviso. Penso che la tristezza sia il sintomo di quanto amino piangersi addosso, annoiarsi di se stessi. La maggior parte degli uomini pensa di non poter dare nulla, e quindi anche, chiaramente, vuol dire di non ricevere. Ma dove sono andati a finire i coraggiosi e i curiosi? Ma sai, Sara, quando ci si parla tra amiche e ci si fanno confidenze del genere e ci si fanno dei graziosi sproloqui come quello che tu hai fatto, di solito ci si dice: ma no, ma certo, tu sei troppo in gamba, non esistono più uomini degni di te, sei troppo spiritosa, troppo affascinante, hai troppo carattere. Però mica è vero. Io ti posso garantire che esistono degli estimatori per qualsiasi tipo di grazia e virtù. Non è vero che gli uomini sono tutti uguali e che un tipo di donna evoluta e affascinante li mette tutti in fuga. Tu scrivi in modo divertente, ma io credo che tu sia semplicemente capitata male. Io credo nel caso, Sara, crudele più di ogni discriminazione. E rimando alla mia Bibbia in proposito, più volte citata, Sliding Doors. Quel piccolo film, quel semplice film che mi illuminò in proposito. E mi riferisco anche alla mia esperienza personale. Se io non fossi andata da ragazzina negli Stati Uniti e non avessi avuto un fidanzato attivista contro le discriminazioni razziali, e se lui non avesse avuto un amico che al ritorno conobbi che mi presentò la persona che più è stata importante per la mia sorte, ecco, tutti questi sé, questi sé, questi sé, poi una persona che tra l'altro abitava nella mia stessa città, poco distante da casa mia, mai avrei concepito il mio sentimento dell'amore così intransigente verso le mezze misure. Stai attenta quando esci dalle porte girevoli. Cerca di non mancare la persona che si divertirebbe all'infinito con te e di te. Mi scrive Ilaria, italiana che vive in Belgio. La gelosia è una brutta bestia. Ho paura che possa rovinare il rapporto fra me e il mio ragazzo. Ho 29 anni e abito in Belgio per motivi di studio. Il mio ragazzo è di qui, lavora in un bar. Stiamo insieme da 3 mesi. Colpo di fulmine secco. Ho sempre considerato la gelosia dannosa e noiosa. Ma anche se faccio buon viso a cattivo gioco, divampo. Con lui che adora sentirsi desiderato, la gelosia all'inizio è stato un gioco che adesso sta degenerando. Per mettersi con uno che fa il cameriere, bisogna avere una pazienza infinita. Il cameriere d'un bar di quartiere qui è un personaggio leggendario. Conosce tutti, è sempre al centro dell'attenzione e ha un'attrattiva assoluta sulle donne, che cascano ai suoi piedi senza dignità, me compresa. Il fatto che lui sia sempre accerchiato da donne adoranti e brille l'ho accettato come parte del suo mestiere. Quello che invece non riesco a mandar giù è un'altra cosa. E qui entriamo nel vivo, perché non soltanto questa ragazza è una star, ma lui ha un'amica, solare ed espansiva come lui. Dal primo momento che l'ho vista mi è stato chiaro che è stracotta del mio ragazzo, anche se vive con un altro. Si è dimostrata ben disposta nei miei confronti, ma avevo un dubbio. Ne ho parlato con lui, che candidamente mi ha confermato che è vero. Mi ha detto che c'è sempre stata una grandissima intesa fra di loro e sono anche finiti a letto insieme, ma senza far nulla, per i sensi di colpa di lei nei confronti del suo compagno. È vero che tutto questo è successo prima che mi conoscesse, ma questo ha aperto un dubbio che si fa sempre più ingombrante. Le donne del bar sono una cosa, ma un'attrazione così forte è un'altra. E qui racconta che lui le sembra molto sincero, che le ha addirittura proposto di andare a vivere insieme, ma che niente la calma. Perché tra loro due ci sono molte affinità. Condividono le stesse convinzioni politiche, hanno tantissime amicizie in comune. E poi soprattutto i caratteri. Entrambi sono esplosivi, mentre lei è una ragazza timida, riservata. Hanno gli stessi interessi, mentre io e lui siamo il sole e la luna. Insomma, nella mia testa, lei è un vulcano di vitalità. E rispetto a me vince 10-0. Non sono uno zombie, anche a me piace divertirmi, ma ho un carattere chiuso e sono terrorizzata che lui possa rendersi conto di quanto si sta perdendo restando con me. Sono convinta che è troppo bello per durare. Lo so, è un ottimo sistema per farsi piantare, ma che fare? È un problema mio, lui mi rassicura. Giorni fa andiamo a ballare, lei era già lì e appena l'ho vista entrare gli si è lanciata addosso con ardore, gli ha preso la testa fra le mani e gli ha dato un bacio. Poi si è accorta della mia presenza, mi ha abbracciata. Scusa, ho appena baciato il tuo ragazzo. Non sapevo che anche tu fossi qui. Ho stretto i denti. Era uno scherzo, un gioco. Ma che bel cazzotto l'avrei tirato. proprio in faccia. Che gatta morta. Altro che abbraccio. Era il bacio di Giuda. Mi sono eclissata fra la folla per scaricarmi ballando. Se no, so che avrei fatto un massacro. Dopo quel fatto, reprimo ancora più i miei sentimenti, la mia rabbia, la mia insicurezza. Sono spesso arrabbiata o triste. Ho mal di pancia nervosi. Mi è venuto il febbrone. Ho paura di perderlo. Non voglio che si senta soffocato dalla mia gelosia. Come posso riacquistare la mia sicurezza e smettere di contare i punti con le altre donne? Ilaria. Se, Ilaria, tu mi scrivi, contando sulla mia saggezza, stai fresca. Io non ti posso dare un consiglio, perché questa tua lettera mi ha fatto fremere, mi ha fatto imbestialire come se fossi al posto tuo. Io non ti posso dire niente di sensato, perché sono annebbiata dalla rabbia, mi identifico totalmente. La cosa che trovo più insopportabile in amore è il flirt subliminale, la complicità che passa sopra la tua testa, questa intesa implicita che non si può eguagliare. E con l'aggravante che non hanno fatto l'amore, soltanto perché lei all'ultimo si è negata, dice, per rimorsi verso il fidanzato. Ma quali rimorsi se poi amoreggia col tuo irresistibile cameriere sotto i suoi occhi, anche di lui, non solo i tuoi? No, io, ecco, mi metto al posto tuo. Sì, sono sicura che lui è innamorato di me, ma fra quei due mi sento una pedina. Quanto mi è antipatica lei, perché lei è convinta di essere l'unica vera donna di lui. E il rapporto non consumato è un legame più forte che se il sesso ci fosse stato. È una grande mancanza tra loro che aleggia come una nuvola, sempre presente. Quella che questa donna fa è una magia nera e tu la secondi, e lo sai benissimo. E la magia nera dov'è? È che tu pensi molto di più a lei che a lui, e la rabbia che provi per lei supera in importanza l'amore che provi per lui e lo offusca. Se tu, per miracolo, non diventi santa, sentirai lei fra voi in ogni istante. È vero, hanno in comune delle cose importanti, la lingua, la passione politica, gli amici e una fondamentale, il carattere esplosivo, che lei usa come un alibi per farti degli affronti, come baciare il tuo ragazzo in modo così amoroso e confidenziale, e facendo poi finta che non t'ha vista, perché questo vuol dimostrarti che lei manco ti vede, che non esisti, e insinua con questo comportamento che nemmeno lui dovrebbe vederti. È vero, è falso. Sai, sei troppo intelligente e hai troppa dignità e senso dell'amore per dirgli o io o lei. Sai che le mancherebbe. Sai di non poter colmare il vuoto che lascerebbe. Lei è sfrontata, ma non abbastanza da avere il coraggio di lasciare il suo ragazzo. Vuole tenere il bel cameriere, ma senza prenderlo. Brutto personaggio. Sei fritta, Ilaria, anche perché hai un tale senso di inferiorità rispetto all'altra. La riconosci superiore per vitalità, per tutto, e questo rimpicciolisce ancora di più la tua personalità già così contratta da questa offesa che non dichiari. Il tuo pensiero fondamentale è che al posto di lui saresti innamorato di lei e non di te. E questo sei molto arbitrario, perché poi l'amore è ben capriccioso, eh? Però contro questo pensiero che ci vuoi fare? Io, te l'ho detto, sono stata gelosa per te mentre leggevo. Mi mettevo al tuo posto e con insofferenza pensavo, ma io non sopporterei un giorno di più, troncherei e farei una catastrofe, farei veramente male. Però come si può sopportare in amore l'idea che l'amato abbia più confidenza con un'altra che con te? Ma ti dico, io sbaglierei in questo modo, tu sbaglierai a modo tuo. Io penso che tutte le decisioni siano giuste, perché una volta prese sono lì, sono fatti e fanno parte delle cose create. Però scusa, grazie per aver scritto, ma invece che a me, queste cose le vuoi dire a lui? Perché questo creerebbe fra voi una complicità che non è condivisibile con l'altra. Questa volta siete voi due che parlate dell'altra e non lei, l'altra, che parla con lui e dice «Poverina, la tua ragazza è gelosa, vero? Non capisco perché». E lo guarda in fondo agli occhi, stipulando un patto eterno. Sgomina il gioco se puoi, altrimenti ritirati. Thank you.